tranquilla fra li morbi di piume, io vo cercando lilla, io vo cercando lilla. E li miri occhi, e li lumi. Che bravo! Amanti, viva il scherno.